Una voce sta cantando, ma son pochi ad ascoltare. I gabbiani stan gridando per poterla soffocare. Altre voci piano piano stan crescendo da lontano. Se quel canto vuoi seguire, vuoi cantare, e così sconosciute siamo in tanti a camminare con le lacrime negli occhi, con il sole dentro al cuore. Se sei stanco di lottare, puoi fermarti a riposare. Se non sai più cosa fare, puoi cantare, e così tu sarai uno in più con noi, e così tu sarai uno in più con noi. Mentre il mare sta a guardare, continuiamo a camminare come tanti burattini, con le facce da bambini. Se sei stanco di lottare, siedi qui a riposare. Se non sai più cosa fare, puoi cantare, e così tu sarai uno in più con noi, e così tu sarai uno in più con noi. Sta cantando, una voce sta cantando.